vista bella come una stella, vestita d'argento alla fermata del tram. Ciao, dove vai? Ad una festa, ti porto con me. L'amore è una cosa che arriva all'improvviso dentro di te. L'amore è l'illusione che non vive più senza te. L'amore è, l'amore è, così siamo arrivati alla festa, la stanza era piena di musica e luci. La gente intorno ballava, poi io ti ho chiesto qualcosa da bere. Io e te a poco ci siamo baciati, trovati storpiti, abbracciati. Un bacio d'amore rubato un momento, un forte vento di te. Brucia dentro e non sai perché. La festa è finita, la gente va via e non so ancora il tuo nome. Rimane solo un ricordo, una notte, un sogno. Domani chissà. Io resto per te.